Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. I bimbi anche piccoli vivono come adulti. Spesso sono da soli, non possono andare a scuola, non vanno all'ospedale quando si ammalano. Quelli che riescono ad andare a scuola devono spesso disertarla per andare a cercare il cibo. Non è facile. L'acrobazia è qualcosa che è legata molto alla loro vita. I ragazzi di strada sono abituati a correre, a saltare. Io insegno loro a perfezionare quanto già percepiscono, a sfruttare il loro talento. E a loro piace. Siamo alla periferia di Nairobi. Alcuni ragazzi e ragazze si esibiscono all'aperto in acrobazie, musica e danza. Provengono tutti dagli slum, le baraccopoli. Io stesso sono cresciuto in questa baraccopoli. Sì, ero in fondo ragazzo di strada anch'io. E grazie a padre Kizito ho potuto venire qui in questo centro di Kivuli e organizzare un gruppo di acrobati. L'obiettivo era di tirarci fuori dalla vita di strada, dal crimine, dalla droga. E ora questa è diventata la mia casa. Jameson Goy è fiero della sua attività a contatto con i piccoli diseredati. A spronarlo, a organizzare e finanziare questa attività è un prelato italiano, Renato Kizito Sesana, con la sua coinonia, un centro di aiuto e reinserimento di chi vive negli slum. Ma essere poveri non significa necessariamente vivere ai margini. In una baraccopoli c'è anche vita sociale. It's a very good social life. Nelle baraccopoli c'è anche una vita sociale molto attiva. Qui c'è molta solidarietà. Non è un inferno per tutti. Per molti è anche come una grande famiglia. So even if there are hardships, there are also good things. We live as one family. So they have the interest and it's easy for us to train them. È facile per certi versi perché sono impazienti di imparare, però è anche difficile perché devono allenarsi ed esibirsi in posti che non sono molto sicuri. È uno sport pericoloso e la sicurezza è importante. L'acrobazia, uno sport, un divertimento, ma anche la prospettiva di una professione che riempie i sogni di molti ragazzi di Kibera, una delle più grandi bidonville d'Africa. Per alcuni bimbi è solo divertimento, per altri invece l'inizio di una carriera. Sognano di poter andare all'estero in tournée. Sognano di poterne fare un lavoro e di esibirsi sulla scena internazionale. Oltre la metà della popolazione della capitale del Kenya risiede nelle baraccopoli, milioni di persone che abitano, vivono nella precarietà. Case di lamiera, bugigattoli di legno e plastica, ovunque rifiuti e condizioni igieniche estremamente precarie. L'acqua più o meno potabile la si va a cercare in alcuni grandi serbatoi di ferro. Any clue how many people live here? Absolutely, yes, you know. There's many of coming of Qualcuno sa quanta gente vive qui, chiediamo a Jack, un giovane che conosce Kibera come le sue tasche. Lui si occupa di recuperare quei ragazzi della strada potenzialmente in grado di tornare nelle scuole. Last year the UN habitants came with approximately 800,000 people living around Kibera. Il censimento dice che siamo 1.200.000, però studi delle Nazioni Unite dicono un po' meno, 800.000. La gente qui però crede maggiormente al censimento, ci racconta. Jack si ferma a discutere, tutti sembrano conoscerlo. Senza la sua presenza per noi sarebbe molto difficile muoverci. Se si conosce e si è conosciuti non si corrono pericoli, ci assicura. Altrimenti, come in ogni altro slum, chi viene dall'esterno non è molto ben visto. Gang, mafie locali, droga sono un cocktail onnipresente. Accanto, però, bisogna dirlo, ha una vita che ha anche una sua coerenza, una sua normalità, con piccoli commerci, mercati. Somebody can do a business in the same room. Sì, la gente lavora e vive nello stesso posto. Sono bugigattoli, posti molto piccoli. La sera si mettono i materassi e si tolgono alla mattina per trasformare la stanza in un negozietto. Un uomo esile col berretto bianco è seduto al bordo della strada sterrata. Un capanno di legno formato da qualche palo e qualche ramo, un telo di plastica per proteggerlo dalla pioggia. Ai suoi piedi un cartello un po' arrugginito con la scritta Fundo Viatu Umbrella. Non va male, il lavoro è ok. Ci dice che ripara molti ombrelli e molte scarpe. C'è parecchia richiesta, anche perché ora piove molto nello slum e i suoi prezzi sono molto favorevoli. Riparare scarpe da donna è molto difficile, ma non ci sono alternative. Ci vuole tempo ed è più caro che riparare scarpe da uomo. Ha piovuto e le viuzze sono fangose. Alcune baracche di lamiera portano la scritta Hotel. Offrono una brandina per non passare la notte alla diaccio. Su altre si può leggere macelleria, parrucchiera, idraulico. Le acque luride scorrono lungo le strade, casupole e tuguri. Sì, vi è un grosso problema con l'acqua e le fogne qui. Le condizioni sanitarie non sono per nulla buone. La salute della gente è legata a quanto mangiano e bevono. Le acque luride arrivano ovunque, anche nelle tubature che portano a questo serbatoio di acqua teoricamente potabile. E così abbiamo un grosso problema col colera qui a Kibera. We are in Karanja Road. Siamo a Karanja Road, dove c'è il Dugum Dogo Rescue Center per bambini della strada. Il Ndugum Dogo è ospitato in una casa arancione, una casa in buono stato, pulita, contrasta ovviamente un po' con il quartiere. Sulla facciata che dà sul piazzale campeggia il disegno di un grande bus rosso pieno di bimbi. Diversi ragazzini stanno giocando a calcio tranquillamente, apparentemente senza spirito competitivo. Ci accolgono con grande familiarità. Un bimbo, quello che sembra essere il leader del gruppo, si chiama Yunus Safari, li convince a entrare. I ragazzi ci salutano in una piccola stanza adibita a aula scolastica. Robato karibu nyumbani. Basically it's a home that was È una casa creata per dare speranza ai bambini della strada, bambini che non hanno un posto che possono davvero chiamare casa e che sono di fatto orfani. Once they will bring them to the rescue center, then we have a dream to them. Quando vengono qui, l'obiettivo è quello di cambiare i loro comportamenti. Per esempio, in strada molti consumano droghe, tanti diventano violenti, e questo per sopravvivere. Dunque qui li facciamo uscire dalla droga e mostriamo come si può vivere assieme senza dover combattere. And then after passing this rehabilitation process and then there sometimes you find some of them in seguito dopo questo processo di riabilitazione a volte è molto difficile perché tanti bambini hanno subito forti violenze psicologiche seguono dei corsi scolastici qui in questo posto l'obiettivo è di farli ritornare in una scuola normale dopo un anno and then we send them to school the whole thing goes for one year.